Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. I carabinieri del gruppo di Roma hanno sgominato un'associazione finalizzata alla commissione di furti in appartamento. 37 le persone, tutte di nazionalità georgiana, alle quali i militari hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Roma ed in altre località dell'Interland. La banda criminale è responsabile di decine e decine di furti in appartamento. Particolare una delle tecniche utilizzate per entrare in casa, conosciuta con il termine di key banking. Era un'organizzazione abbastanza pericolosa, soprattutto perché operava con una tecnica, quella del key bumping, che consentiva di entrare all'interno degli appartamenti senza lasciare effrazioni. Tant'è che in alcuni casi ha creato anche notevole imbarazzo all'interno delle famiglie, perché venivano incolpati spesso badanti e anche familiari che avevano il doppione della chiave d'ingresso, nella considerazione che comunque sulla porta non c'erano segni di effrazione. Complessivamente dall'inizio dell'indagine oltre. Questa è una notizia che risale a qualche tempo fa. Si parlava già di key bumping riguardo ai furti in appartamento, una tecnica che oggi vi spiegheremo di cosa si tratta, che non lascia tracce. Entrate a casa, trovate la casa esattamente con la porta chiusa, senza segni di effrazione, ma vi hanno rubato qualcosa. E comincia il giro delle accuse, chi è stato, chi non è stato, come mai sono entrati così facilmente. Beh, questa mattina invece leggo una notizia che forse dà anche un tassello aggiuntivo rispetto a notizia che è stata già data. È stata sgominata un'altra banda di georgiani, proprio a Roma, 57 arresti, una banda che operava a livello europeo. In questo caso però la notizia nuova è che si avvalevano in una sorta di rete di intelligence. Le badanti che si occupavano di aiutare le famiglie nei lavori domestici o nella gestione delle persone che avevano problemi appunto di autonomia, erano le gole profonde che davano le dritte poi ai georgiani che entrano nelle case col key bumping. Negli ultimi anni le rapine in casa sono cambiate parecchio. Non è certo una serratura a spaventare chi da tempo ha puntato un appartamento in particolare e sta aspettando il momento giusto per ripulirlo. Key jumping, così si chiama il nuovo modo di svaligiare casa senza scassinare la serratura. È la strategia studiata dai cosiddetti nuovi ladri, topi d'appartamento provenienti per la maggior parte dalla Georgia, appassionati di furti senza scasso. Circa un 5 anni. 800 24 00 24, oggi cercheremo di darvi delle informazioni su come funziona questo sistema di effrazione delle vostre case, ma ci servirebbe anche un vostro prezioso contributo. Vi è capitato di avere la casa svaligiata? Ne avete avuto notizia? Avete avuto sentore, sospetti? Avete mai immaginato che dietro la perfezione di un furto che non lascia tracce, che sembra essere avvenuto proprio nel momento strategico in cui a casa non c'era nessuno, non c'erano i vicini, ci potesse essere una sorta di gola profonda, qualcuno in cui voi avete affidato la massima fiducia, che in realtà fa parte della rete degli svaligiatori degli appartamenti? 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Furti di appartamento che non lasciano traccia, una tecnica innovativa, e non a caso oggi non si tratta più del solito ladruncolo professionista che sì, poi in fondo faceva dentro e fuori con le patrie galere e di quello viveva, qualcosa di romantico, di antico. Oggi si parla di squadre specializzate, di persone che hanno nozioni molto avanzate, non soltanto di arte dello scassinamento, ma anche a volte di elettronica, anche a volte di meccanica applicata e via dicendo. Quindi le tecniche di furto diventano su scala industriale molto più specializzate, molto più efficaci. Poi entra in gioco anche il fattore umano. Non basta la tecnologia, ma ci vuole anche la rete, ci vuole l'intelligence, ci vogliono le persone che comunque vivono all'interno di una famiglia, e questo lo dico come premessa, anche se mi sembra inutile, non intendo discriminare nessuno, le centinaia, migliaia di brave persone che suppliscono a delle nostre carenze dal punto di vista dell'assistenza sociale, che fanno le badanti o le colf nei nostri appartamenti. Non è una generalizzazione, però questa mattina la notizia che sono stati arrestati una banda ben organizzata di ladri appartamento che si avvaleva su una rete spionistica di badanti è una notizia che comunque merita di essere approfondita. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve Nicoletti. Passo velocemente a raccontarle di cosa si tratta. Io ho almeno 4 casi che mi sono accaduti personalmente alla mia famiglia. Sempre a casa sua? Se, a casa mia e a casa di mio padre, secondo me riconducibili. Ma voi siete ricchi di famiglia? Avete case lussuose o siete mediamente persone come tutti noi? Siamo persone normalissime, abbiamo un appartamento sia io che mio padre. Lui ha una casetta in campagna, ma insomma non è che abbiano trovato dei grandi valori. Quindi raccattano tutto il suo punto di vista, qualunque, non è che bisogna per forza avere gioielli e preziosi. Si sono attaccati a qualsiasi cosa, certamente gioielli, però comunque buttano per aria tutto, quel che trovano portano, insomma portano via quello che possono. A voi cosa hanno portato via? Solo per capire, voglio capire l'entità. Guardi, i gioielli di mia sorella che aveva in casa una cassetta con varie cose di valore, e i gioielli personali, anche mio padre, addirittura gli hanno rubato, hanno distrutto la cassaforte a colpi di incudine, presa in cantina, e hanno portato via, avevo una cassetta con le armi, hanno portato via una pistola, che poi è stato anche complicato dove fare le varie denunce, perché appunto lui deteneva regolarmente questa pistola. Adesso non so, speriamo che... Ecco, lei ha avuto l'impressione che andassero a colpo sicuro? Le spiego subito, dal punto di vista mio personale, il legame estremamente casuale con le badanti, però che secondo me casuale non è. E quando mia nonna, poverina, che è stata allettata in casa, malata per 4 anni, un traffico di badanti giornaliero, va bene, trovavamo le badanti nelle stanze sbagliate, sapevano perfettamente dove andare a rovistare, poi da lì a pochi giorni ladri in casa, i gioielli di mia sorella sono spariti. Dopodiché muore mia nonna. 6 giorni dopo, ovviamente la notizia viene a sapersi perché le badanti sono state interrotte nel loro flusso, 6 giorni dopo ladri in casa, devastazione. Mio padre, ricoverato proprio quest'estate, a luglio, 20 luglio, è andato in ospedale, è stato tra l'altro 2 mesi in ospedale. Badanti che capitavano lì, va bene, possiamo anche affermare che andassero a domandargli, per così chiederle se eventualmente avesse bisogno di lavoro. Ah, lei vive solo, cosa fa, una casa sola, come sta, cos'è? Niente, primi di agosto, ladri in casa, devastazione. Dopodiché cosa succede? Mia sorella, che era andata a vivere là per tutelare almeno quel po' che rimaneva nella casa, mentre mio padre è ancora ricoverato, poveretto, in fin di vita, viene il 19 agosto, dice il reparto, solo esclusivamente il reparto, non l'ha detta nessun altro, vado in ferie, vi lascio il numero di mio fratello, così se avete bisogno lo chiamate. 6 ore dopo, ladri in casa, devastazione totale, lei è dovuta addirittura tornare dalle ferie, e questa cosa la sapevano solo in reparto. Adesso ovviamente sono tutte coincidenze, non posso dimostrare nulla, saranno coincidenze, quel che vogliamo, però vi lascio immaginare tutte queste casistiche a cosa si possono legare. Quindi secondo lei c'è un nesso? Secondo me c'è un nesso ben preciso sull'informazione che parte sia dall'ospedale che dalle badanti con quello che ti succede in casa. Io questi 4 casi di 4 furti che ho avuto erano tutti connessi a vicinanza di badanti, situazioni ospedaliere di questo genere. Quindi io posso affermare che almeno c'è questa coincidenza. Dopodiché ciascuno potrà avere le sue conclusioni, io non voglio accusare nessuno, certamente non il personale dell'ospedale, per carità, però sono coincidenze abbastanza inquietanti, perché se mia sorella dice in reparto vado in ferie, 6 ore dopo arrivano i ladri, cioè l'hanno fatto appena il tempo di portare via la valigia, subito pronti. Cioè, non so cosa pensare, ecco, io mi trovo in questa situazione e denuncio questa situazione a livello di informazione. Va bene, questo mi sembra intanto il primo segnale che rispetto a quanto stiamo dicendo, ipotizzando questa mattina, ci sono dei riferimenti su cui vale la pena di ragionare. Marco Ferrarini, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Titolare della Ferrarini Porte Blindate di Parma, spesso l'abbiamo chiamato perché è un esperto di sistemi di sicurezza per la casa. Innanzitutto, su questo nuovo sistema, nuovo, non so quanto sia nuovo, di scassinamento, in cosa consiste? È nuovo? Ne sapete qualcosa? Allora, innanzitutto mi scusi se faccio una premessa, ma come al solito lo sa che non sono rapidissimo, ma... No, non mi interessa. Informazioni giuste. Allora, sostanzialmente si è passati da una vecchia serratura di vecchia generazione, che si aveva il problema del grimaldello bulgaro con la vecchia serratura doppia mappa, quella con quei denti laterali della chiave, con quella chiave molto lunga per intenderci, che si è vista in Italia e solo in Italia, tra parentesi ancora, fino a praticamente 10-15 anni fa andava solo ed esclusivamente quel tipo di serratura. Oggi, che però non serve a nulla, diciamo la verità. No, al giorno d'oggi purtroppo ci sono dei decodificatori, si chiamano, che sono delle chiavi utilizzate dagli apriporta per effettuare il loro lavoro, anche anche rapidamente, chiaramente, per far spendere anche meno le persone, sono stati inventati per loro e poi invece alla fine della fiera, al giorno d'oggi, li trova su internet. Quindi è anche vero che di vecchia generazione, di ultima generazione, hanno trovato degli altri accrocchi, degli altri sistemi, ma comunque diciamo che ormai le serrature per la maggiore vanno a cilindro europeo. Ecco, questo cilindro europeo incriminato in questo caso per la questione del bumping è un sistema molto semplice alla fine. Ognuno di voi può andare su YouTube, andare a guardare il bumping, è scritto bumping, che cos'è e che sistema è. In poche parole è l'azionamento dei pistoni interni al cilindretto europeo mediante, a volte con dei ferretti manuali, a volte invece molto più rapidamente con una pistola elettrica che vibra e fa scattare in buona sostanza la serratura. Quindi se la serratura, se il cilindro europeo non è pensato e studiato col sistema anti-bumping, quindi con l'antisaltellamento, perché bumping vuol dire saltare, e in questo caso è il saltellamento dei pistoncini interni, parliamo di micro dimensioni, quindi componenti tipo quelli che ci sono all'interno di un orologio come dimensioni, molto molto piccoli, per cui si lavora su delle tolleranze piccolissime. È importantissimo che le chiavi siano antiduplicazione garantita dalla casa madre, allegata a una scheda di proprietà che, unita alla chiave insieme al suo codice, ci permette di copiare le chiavi esclusivamente nel centro autorizzato, e questo è fondamentale, per cui una volta che la badante eventualmente trova la chiave in giro, se non ha trovato la scheda perché furbamente l'ho messa in un posto intelligente, nascosto, magari anche a casa della mamma, del papà, dello zio, insomma la tolgo da casa, il risultato è che la chiave non può essere copiata. Quindi già questo facilita la questione delle badanti che eventualmente, senza neanche andare a fare il bumping, semplicemente clonano, copiano una chiave, la fanno avere a chi di competenza in questo caso e fanno il furto, punto e basta. Mentre il bumping in sé è un'azione che, se il cilindro non è progettato e pensato col sistema anti-bumping, è veramente gnocco. In, dico poco, 30 secondi a mano un cilindro europeo normale, non anti-bumping, si apre come ridere. Con una pistola elettrica, si chiama la pistola, giusto per informazione, per far vedere a chiunque voglia andare a vedere, la pistola si chiama bumping gun, quindi è bumping gun, è la pistola che serve per aprire all'apriporta, all'epoca ormai è per tutti perché le vendono su internet, il cilindro europeo semplice non anti-bumping, il 4x48, quindi la classica porta di alluminio, la classica porta normalissima di casa che ha un cilindro pensato con l'interno non anti-bumping. Sentiamo un attimo Eleonora. Eleonora, buongiorno. Salve, buongiorno. Sarò rapidissima, chiamo da Modena, sentivo il programma, a me è successa una cosa quasi simile, un mio amico mi ha raccomandato un'ucraina dicendomi che tuttora va da lui, dicendomi che era stupenda, splendida eccetera, e lei quando veniva mi guardava sempre, io avevo 3-4 anelli e mi diceva sempre ma che begli anelli, stupida, ma dove li tiene? Io stupidamente ho detto li tengo in cassaforte. Diciamo che nel giro di un mese sono tornata a casa, cassaforte sfondata, tutto portato via eccetera, e lei, che io sono andata subito anche, ha negato completamente così, però la situazione, io sono sicura perché li ammirava, diceva sempre così, e sono andati perfetti dalla cassaforte. Questa è la mia esperienza, hanno portato via tutto. Quindi le fa pensare anche lei che ci possa essere questo nesso, senza naturalmente generalizzare? Ma sì, tra l'altro, anche perché suo marito, per misericordia, mi chiedevano di fargli fare il giardino. E devo dire che quando sono venuti hanno avuto una cura che mi è sembrata un po', non hanno rotto la lampada, l'hanno smontata e l'hanno messa con cura per terra, come se il cane non gli hanno fatto niente, quindi mi è sembrata come questo giardiniere, questo il suo marito era molto gentile, quindi mi è come sembrata anche un minimo rispetto, però i gioielli sono andati, ma con cura hanno cercato di non rompere niente. Bene, non vorremmo dare questa mattina adito ai sospetti più inverecondi gli onesti badanti che abbiamo in casa, però raccogliendo comunque delle testimonianze che hanno qualche punto di riflessione sulla possibilità che esista in molti casi, in alcuni casi, in pochissimi casi, ma comunque in certi casi, questo legame ci permette comunque di avere magari un occhio di attenzione più di quando si assumono delle persone. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo su questo argomento. Melog. Cronache meridiane. Scassinatore a tempo di record mettevano a segno 30 furti alla settimana entrando in appartamenti vuoti nel tardo pomeriggio. Tra sabato e domenica è stata arrestata una banda di 4 albanesi. I carabinieri di Riccione hanno condotto l'operazione in collaborazione anche con la gendarmeria ed hanno recuperato le furtiva per 100.000 euro. 800 24 00 24, stiamo cercando di aggiungere se possibile qualche nozione in più sui furti d'appartamento, una piaga che affligge tutti gli italiani, non necessariamente quelli più ricchi, quelli con case più opulente, con maggiori beni esposti nelle loro abitazioni, ma colpisce tutti. La novità che viene fuori questa mattina, che già era argomento di facezia domestica, di suspicione di nonne, zie e suocere, che ci sia comunque una sorta di racket che allo stesso tempo fornisce, mette nel mercato badanti, quindi persone che entrano a fare servizi e assistenza nelle case, e scassinatori che in combutta mettono insieme degli elementi necessari per scassinare anche le serrature di ultima generazione. Avevo il telefono Marco Ferrarini, che ricordo titolare della Ferrarini Porte Blindate di Parma, esperto in serrature di sicurezza. Le chiedo un maggiore approfondimento rispetto a quanto detto prima, perché ce lo chiedono molti. Senza la dritta di chi fornisce il calco della serratura o gli elementi necessari per mettere in azione poi la pistola apri tutto, si riesce lo stesso? È importante, diciamo, l'attività di intelligence per lo scassinatore in questo senso? Allora, diciamo che è praticamente un lavoro, ossia l'apriporta non è un genio che viene fuori dalla lampada di Aladino, semplicemente si è messo con santa pazienza e santa calma ad aprire tutte le serrature e guardare, studiare e capire come si fanno a deludere, ad aprire nel momento in cui sono chiuse. Quindi le ha comperate, le ha aperte e ha visto come sono fatte dentro e ha imparato come aprirle. Certo, assolutamente, ed è la stessa identica cosa che fanno queste persone che hanno intenzione di venire in casa nostra. Quindi, in buona sostanza, tutto ciò che è commerciale e facilmente reperibile sul mercato. Devo fare una precisazione. Scrive l'ascoltatore: puntata con un vago alone di xenofobia. Di tutto mi si può accusare, meno di avere sentimenti xenofobi. Se vengono arrestati una banda di scassinatori che faceva comunque conto su una banda di altrettante badanti che davano le dritte, non è xenofobia, è semplicemente registrare la realtà dei fatti. Non me ne importa nulla, non ho nessun tipo di retropensiero, sono felice che vengano le badanti da tutto il mondo e si occupino di noi anziani quando avremo pannolone e catetere, però se in qualche maniera una parte piccola, alta, grande, non so io che devo dirlo, di queste badanti danno poi le dritte agli scassinatori, è giusto che lo diciamo, non abbiamo paura delle parole. Scusate, andiamo avanti, scusi Ferrarini, bisogna specificarlo, sennò sono tutti bravi a fare i politicamente corretti quando hanno casa tranquilla, capito? È facilissimo infilare la testa come fanno gli struzzi sotto la sabbia e far finta che il problema non esista o che non esistano soluzioni o, diciamo, impedimenti che ritardino, perché non esiste nulla di vulnerabile, nulla di inapribile, nulla di insfondabile, mettiamola così in termini proprio grezzi. Quello che bisogna fare, secondo il nostro punto di vista, è rallentare più possibile il tentativo di distruggere, aprire, sfondare, entrare, perché i furti, è dimostrato, durano tutti dai 3 ai 10 minuti compreso, diciamo, da quando iniziano a quando scappano. Quindi l'istante che uno scende a comprare il latte, che possono essere 4-5 minuti, è sufficiente per svaligiare una casa? Assolutamente sì. Se basta che, ripeto, basta andare su YouTube, o se qualcuno, adesso mi scusi, faccio un po' di pubblicità tra virgolette, il nostro sito www.ferrarini.pr.it, nelle news, oppure andando sulla nostra pagina Facebook, abbiamo appena inaugurato una, diciamo, una serie di news, una serie di... Vabbè, se voi mettete delle istruzioni per l'uso, certo. Non fate, è giusto che lo dica, non è che poi non è che devono comprare per forza le vostre porte, però intanto avete messo degli elementi di lettura per le persone che vogliono saperne più. Sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Salve, chiamo da Mantova e mi occupo in qualche modo, ho a che fare, insomma, con persone che hanno avuto problemi con la legge, in quanto mi occupo di reinserimento lavorativo, eccetera, e a volte tra confidenze so che volenti o nolenti alcune ragazze che fanno le badanti vengono o circuito in qualche modo sfruttate per ottenere informazioni, a volte addirittura c'è una piccola combutta nella quale ci danno addirittura comunque copie di chiavi, eccetera, e poi il ladro... Ecco, lei come fa a avere queste informazioni? Però voglio sapere come le fa a avere queste informazioni esattamente. Se io e lei usciamo e abbiamo rapporti, ovviamente dopo si parla anche del più e del meno. Quindi lei ha frequentato signore che fanno le badanti e l'hanno raccontato? No, non signore, ho frequentato persone che hanno sfruttato queste amicizie per poter entrare in appartamenti, insomma. Cioè persone che lei segue professionalmente, quindi persone che hanno già avuto problemi con la giustizia. Certo, perché... E le hanno detto, noi ci fidanziamo con le ragazze e ci facciamo dare le dritte, qualcosa del genere? Sì, anzi, ci si fanno dare anche di più. A volte il fatto che l'appartamento viene trovato sfondato si fa all'uscita dall'appartamento per fingere un'effrazione che in realtà non c'è mai stata. Ecco, lei ci sta spiegando allora che ha avuto testimonianza di prima mano, che si occupa di reinserimento di persone che hanno avuto problemi con la giustizia, che esiste veramente questa sorta di legame. Voglio capire bene poi se il legame è consapevole, queste in buona fede parlano con un fidanzato, gli dà la dritta, come accadeva. Ecco, sì, delle volte c'è proprio l'astuzia di andare a cercare queste persone che magari a volte neanche sanno. Non sempre, però c'è proprio questo, si riesce ad avere un rapporto sentimentale o d'amicizia con queste persone, si carpiscono alcune informazioni, ma non è detto che tutte siano diciamo partite col piede sbagliato. Guardi, esattamente è la chiave, me lo ricorda in tonte, me lo ricordavo anch'io, nei soliti ignoti Gassman fa la corte alla domestica delle signore dell'appartamento in cui devono entrare per fare il famoso buco sul muro. E quindi è una cosa antica come il mondo, da quando esiste il mondo esiste la possibilità del ladro di avere una sorta di rapporto fintamente amoroso con la domestica della casa per avere informazioni sui padroni. Questo è interessante, lo ha detto Stefano. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, salve. Io ho studiato, 25 anni, sono appena entrato nel mondo del lavoro, ma ho studiato informatica, mi sono specializzato in sicurezza informatica e volevo intervenire sul fatto che purtroppo i ladri sfruttano molto anche i social network. Nel momento in cui io ho un profilo pubblico e posto, non so, le foto delle mie bellissime vacanze a Ibiza perché sto via 2 settimane, o ancora peggio, posto che magari non sono molto disponibile perché mio nonno è in ospedale, allora io sto dando informazioni che i ladri possono sfruttare. Diciamo che se uno non ci avesse altro da fare durante il giorno e si mette a frequentare i social network della propria città, tanto per cominciare, fa una selezione, mi guardo una città, facciamo una città di provincia perché Roma è immensa, ecco, e comincia a vedere tutti quelli che dicono che bello, sono partito, e si fanno vedere con i piedi all'aria sulla spiaggia. Quelli intanto sono facilmente rintracciabili perché uno incrocia il nome con le pagine bianche per le cose più stupide del mondo, poi tutti scrivono gli indirizzi, le cose, e trova la persona, sa che quella se ne sta al mare, quindi ha una maniera migliore per entrare. Se di più facciamo vedere, guardate, sto qui con i miei amici a tavola, comincio a vedere, c'è un bel televisore, ha bei mobili, ha una casa carina, si veste bene, comincio a pensare che in quella casa può esserci qualcosa. Esatto, purtroppo bisogna fare molta attenzione a quello che si pubblica in rete, perché è un'arma a doppio taglio, per quanto possa essere bello e tutto quanto, può anche fornire delle informazioni a persone malevole. Addirittura ci sono alcuni che creano dei falsi profili, soprattutto di donne anche attraenti, per contattare in maniera malevola qualcuno e ottenere ancora più informazioni. quindi attenzione, mariti allupati che trovate, esatto, improvvisamente, vi chiede l'amicizia, vi dice: oh, che bello, vi fai del casa tua, voi tranquilli, vi mettete lì a ciondolare per la casa, fargli vedere quanto è bella la casa, sì, e naturalmente fate, magari fate gli sboroni, dite che a casa vostra c'avete un sacco di bella roba, sì, che avete soldi, che siete ricchi, c'è una bella macchina, sono, ecco, tutte informazioni, senza andare a colpevolizzare la povera badante che gira, no, no, con lo, esatto, spazzolone. C'è anche una maniera molto più efficace e astuta per entrare nei segreti di una casa. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Io mi occupo di sicurezza informatica e uno dei rami della sicurezza informatica si chiama appunto lockpicking, che è riferito all'arte, diciamo, all'arte a livello quasi sportivo, ci sono dei contest in tutto il mondo, all'arte di aprire le serrature. Sì, è un giochetto che fanno gli hacker, fanno anche dei tornei, l'ho visto, vendono gli strumentini, i grimaldelli, è divertente, sì. È molto divertente, è molto semplice aprire alcune tipologie di serrature, è molto più difficile aprirne altre, e non serve, diciamo, non servono delle competenze particolari, ma serve più che altro fare un po' di prove. Quindi, come ci ha detto prima l'esperto di serrature, esiste una sorta di sport divertente tra ragazzi che fanno dei tornei, mettono davanti alle serrature, chi è più bravo ad aprirla ha vinto la gara, per dimostrare che in fondo lo scassinatore dei sistemi informatici ha anche una sua manualità, è smanettone da tutti i punti di vista, ma quello è un esercizio di virtuosismo. Se la stessa cosa la fa qualcuno seriamente intenzionato a entrarvi in casa vostra, basta che incroci le informazioni, le cosiddette fonti aperte che mettete di voi stessi su social network, la capacità di trovare una manualità e mettere a punto tecniche di apertura è molto facile, vedete che poi si entra in casa, poi c'è anche l'intelligence, meglio ancora. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, vedete che abbiamo anche noi una rete formidabile di informatori, che è il nostro pubblico, mettendo insieme le competenze spesso di livello alto e specialistico delle persone che ci ascoltano, riusciamo a ricostruire qualcosa di una notizia che in fondo dava dei confini piuttosto vaghi, una rete di scassinatori tecnologici che si affida su una rete di badanti. È molto più sottile, non sono soltanto le badanti, anche la capacità che abbiamo noi di dire molto di noi lasciando i social network, anche la possibilità di adescare persone alla ricerca di facili avventure attraverso dei finti profili Facebook, raccontate, fate belli con la signorina che vi ha chiesto l'amicizia, dire quanto è bella camera vostra, guardate che bello scannatoio avete, poi vi ritrovate dei nerboruti georgiani dentro casa, vi portano via anche le mutande. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Vicenza, faccio il perito assicurativo, quindi di furti ne vedo, diciamo, parecchi. Allora, ci dia qualche altro elemento rispetto a quanto abbiamo già detto. Beh, io consiglierei soprattutto alle persone di, cioè il ladro, quello, diciamo, ce ne sono di parecchi tipi, diciamo che quello professionista, diciamo, non sono la maggior parte, sono, diciamo, quelli più frequenti, sono quelli, diciamo, i famosi ladri di polli, ecco. Per quelli lì, secondo me, bisogna creare sia dal punto di vista dell'impianto allarme, sia dal punto di vista dei serramenti, e avere dei buoni, diciamo, sia serramenti che anche impianti di allarme, e questo già limita soprattutto i furti, quelli lì, diciamo, quelli di massa. Diciamo, quelli meno esperti si bloccano aumentando, sì, la tecnologia. Ecco, nella media, diciamo, sono 9 su 10, ecco, quello, diciamo, quello esperto, quello lì no. Quindi lei da perito assicurativo dice 9 su 10 sono persone che trovano le case talmente, sì, facilmente espugnabili, sì, sì, sì, sì, in quel caso voi non pagate. No, beh, ci sono delle garanzie, ma ci sono dei scoperti, ma quando, diciamo, i sistemi di chiusura sono insufficienti, la compagnia paga lo stesso, ma con uno scoperto del 20%, però comunque la compagnia paga. Allora, per molti rendiamo noi stessi la vita facile, perché non ci muniamo di sistemi di sicurezza. Sì, sì, sì. Laddove noi invece abbiamo speso bei soldoni, entra in gioco lo specializzato. Chiaro. Carlo, buongiorno. Buongiorno, salve Nicoletti. No, volevo chiedere solo una cosa all'esperto, se è ancora presente. Certo. Cioè, mio figlio, no, dopo che il condominio hanno subito certi furti, no, in appartamento, cosa ha fatto? Ha cambiato in pratica praticamente tutta la porta blindata e ha tolto quello che è l'entrata con la chiave, diciamo, non c'è più la chiave, e al suo posto è stato, c'è una specie di di pass. Come negli alberghi, sono... come negli alberghi. Esatto, come la tesserina che non funziona mai, poi si smagnetizza sempre, è un problema. Ecco, lui mette lì la carta magnetica e lui apre se è giusta. Allora, io voglio sapere una cosa, questa roba qua ovvia al discorso oppure è un po' uguale? Io dico onestamente, faccio la mia premessa, a me fa paura perché tutte le volte vado in albergo, sempre chiamare qualcuno, che la mia è sempre smagnetizzata la tesserina. Però non so. Vabbè, io ne ho una, ad esempio, io sono il papà, sono in un altro posto e ce l'ho una anch'io in casa. Sì, basta appoggiarla su uno smartphone, io ho la tasca è sempre piena di attrezzi che emanano onde elettromagnetiche, quindi mi capita spesso. Poi sentiamo Ferrarini, Marco Ferrarini della Ferrarini Porte Blindate di Parma. La tesserina magnetica funziona? Allora, innanzitutto c'è una nuova, diciamo, un nuovo sistema di apertura recentissimo, oddio, sarà dal 2005-2006 che esiste, ed è l'apertura motorizzata. Quindi la serratura, ogni volta che chiudo la porta, in automatico va in chiusura e per l'apertura ci sono vari sistemi. Può essere un sistema RFID, ovvero una tessera di quelle tipo badge, per chiamarlo volgarmente così. Ecco, non c'è il pericolo si smagnetizzi e rimane fuori casa? Ecco, sì, certo, esiste la possibilità che si cancelli, ma è una cosa molto molto molto remota. Adesso la tecnologia più recente prevede invece il fatto di poter memorizzare una chiave sul telefono, sullo smartphone. Quindi chiaro che bisogna avere uno smartphone di io che lo lascio sempre a casa la mattina, devo tornare indietro, sarei fregato comunque. Allora, diciamo che esiste attualmente una nuova serratura chiamata appunto, come le dicevo, motorizzata o elettromeccanica, quindi apre e chiude meccanicamente con un motore che muove i catenacci di chiusura di sicurezza della porta blindata. La porta blindata è chiusa, quando è chiusa è sicura, se è chiusa solo con lo scrocchetto, quindi appoggiata e spinta, a quel punto non è sicura. Quindi questo sì, lì si apre con una pellicola fotografica, è un attimo, con la carta di credito, l'ho visto fare tante volte, ci ho provato, io non ci riesco, ma è semplice. È una cosa veramente semplicissima. Quindi, siccome i test sulla porta blindata sono fatti con la porta blindata chiusa, quando ad esempio si ha un piccolo condominio, tre famiglie, 4, 5, quelle che siano, e la porta d'ingresso dà sulle scale, è la classica porta che viene lasciata chiusa esclusivamente con lo scrocchetto, quindi elettrico che sia, ma è uno scrocchetto che si apre in 448. Motorizzando la serratura si ottiene quella che è la vera sicurezza. Quando passa una persona, in automatico si chiude la serratura. Questo è il meccanismo motorizzato che fa l'esatto effetto del chiudere a chiave la porta, ossia se io chiudo, diciamo, la chiave, che tante volte uno dice scendo 10 minuti tanto vado sotto a fare la spesa che non c'è bisogno, giro la chiave, sbaglia perché quei 10 minuti sono quelli fatali. Il sistema motorizzato chiude in automatico la porta, si blinda come Fort Knox. Sentiamo Elton, buongiorno. Senta, io sono straniero e nella mia vita ho incontrato persone che sono entrate in casa. Sinceramente non ho conosciuto di quelli che entrano con i sistemi nuovi, però la vecchia cacciavite e via dicendo. Allora, c'è gente che sfrutta le conoscenze, cioè parenti, amici, e chiede informazioni dove lavora tua moglie, tua fidanzata, tua sorella. E magari senza dire a queste persone chi sono, o vagamente facendo capire. Ma questo dove avviene? Nei locali dove ci sono feste, dove ci si incontra, nei bar? Nel bar tranquillo, no? Cioè, noi essendo stranieri solitamente facciamo compagnia fra di noi. Avete dei posti di ritrovo, è logico, questo è logico. No, assolutamente no. No, non ci sono dei posti di ritrovo specifici. Magari ti vedo per strada, ti chiamo, vieni a prendere un caffè. È l'usanza nostra, insomma, no? In tutto il mondo. Quindi nel parlare si sfrutta anche questa abilità di queste persone. Dopodiché calcoliamo anche un'altra cosa, che queste persone stanno tutto il giorno senza far nulla, quindi guardano il vecchietto o la vecchietta che esce dal condominio. Allora, la sigla è molto chiara, lei ci ha aggiunto un elemento in più: l'apparente sfaccendato in realtà sta lavorando. Perché? Perché sta studiando per entrare a casa nostra. Grazie, alla prossima.